Focus Economia. Le 17:06 minuti e 49 secondi. Buonasera, gentili ascoltatori, da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Una giornata, quella di oggi, che vede i mercati riprendersi un po', soprattutto a Milano, dove il FTSE All-Share guadagna l'1,26% in questo momento e il FTSE MIB l'1,38%. Tra l'altro, appunto, Milano è la migliore d'Europa in questo momento, se considerate che Parigi guadagna appena mezzo punto percentuale, così fa Francoforte, mentre l'America perde lo 0,35% sul Dow Jones e lo 0,45% sul Nasdaq, trainata al rialzo in particolare dai bancari. Su tutti, Banco Popolare un più 5,28%, sconta tra l'altro una promozione di Goldman Sachs, e l'euro che intanto quota 1,3107 contro dollaro. Di cosa parleremo oggi? Naturalmente parleremo del rapporto sulla ricchezza delle famiglie italiane della Banca d'Italia e sarà il nostro tema di apertura. Molti dati che ci sono inseriti dentro sui debiti delle famiglie italiane, sulla distribuzione della ricchezza e non solo, anche sugli asset nei quali investono le famiglie italiane, quindi sempre meno bot, ma insomma era prevedibile, visto che naturalmente i tassi di interesse sono così bassi. Parleremo di questo, parleremo di piccole e medie imprese e di come si preparano ad affrontare questo 2011 investendo sull'innovazione. Vedremo anche di scendere un pochino più sul concreto e poi torneremo sui temi europei che continuano a caratterizzare anche queste ore. Ci sono parole che arrivano dalla Banca Centrale Europea riguardo all'Irlanda piuttosto dure, nuove mosse da parte di Moody's e soprattutto questo asse tra Francia, Germania e Inghilterra che sembra rinsaldarsi ogni giorno di più a partire da una lettera inviata dai tre leader sabato scorso all'Europa sul tema del bilancio comunitario, un altro di quei temi che farà sicuramente discutere. 349-238-6666 è il numero, come sempre, per intervenire in diretta via SMS. Le notizie in breve di questa giornata. Sul fronte delle materie prime abbiamo il petrolio che ha aperto in rialzo a New York, un più 0,3% ad $88,25 al barile, mentre l'oro anche in rialzo sui mercati asiatici a $1,382,38 l'once, il rialzo è dello 0,5%. Per quanto riguarda il cambio, quello che forse è più interessante oggi non è tanto il cambio dell'euro sul dollaro, comunque lo ribadiamo, 1,3112 in questo momento, oscilla intorno a quelle cifre, è quello contro il franco svizzero. Allora, ha toccato un nuovo minimo a 1,2716, poi in questo momento è sceso ancora più in basso, è 1,2648 dopo un minimo a 1,2603. Restando ai temi dell'Europa in difficoltà, dei paesi con un debito per così dire a rischio, abbiamo la borsa di Atene che oggi continua a subire forti perdite sotto il peso dei timori di un nuovo taglio da parte di Moody's e Fitch. Nel frattempo la Grecia, come se non bastasse, è di nuovo semi paralizzata dalle proteste in seguito allo sciopero dei trasporti pubblici, è la terza settimana consecutiva per lo sciopero dei trasporti pubblici. Dal Portogallo arriva la notizia che l'esecutivo portoghese si prepara ad annunciare a breve un'iniezione di 500 milioni di euro nel Banco Português de Negócios, che era stato nazionalizzato nel 2008, che lo Stato ha tentato di privatizzare, ma non c'è riuscito. La Banca Centrale Europea la scorsa settimana si è appreso oggi e ha acquistato 603 milioni di titoli di Stato emessi nell'area euro, dando un colpo di freno rispetto ai 2,7 miliardi della settimana precedente. E sempre la Banca Centrale Europea, ed è quello a cui facciamo riferimento in apertura, ha espresso seri timori sul salvataggio, insomma serie preoccupazioni sul pacchetto di salvataggio da 85 miliardi di euro concesso all'Irlanda, perché potrebbe influire negativamente sulla facoltà dell'istituto di fornire ulteriori aiuti finanziari ai paesi di Eurolandia. Va detto, naturalmente, visto che nelle settimane scorse lo stesso presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, ha raccomandato anche ai leader europei una certa continenza verbale per evitare di dare troppi scossoni ai mercati, va detto che si tratta di un cosiddetto opinion paper, ossia non è una posizione ufficiale della Banca Centrale Europea, ma è frutto dell'ufficio studi, in sostanza, dell'Eurotower. Dicevamo, di Moody's era una mossa sostanzialmente attesa, però insomma dopo aver downgradato, si è tagliato il rating, tagliato il giudizio di 5 livelli sul debito sovrano dell'Irlanda, Moody's ha deciso di tagliare il rating sui depositi bancari, il debito senior e la forza finanziaria di una serie di istituti tra cui Bank of Ireland, Allied Irish, Irish Life and Permanent, insomma sono 5 in tutto. L'agenzia americana ha anche ridotto il rating sul debito senior e i depositi della famosa Anglo-Irish. Ci sono poi le parole dell'OCSE sulla Spagna. L'economia spagnola, dice l'organizzazione, sta lentamente riemergendo da una profonda recessione che avrà effetti di lunga durata. Per ritrovare l'equilibrio avrà bisogno di un ampliamento e un approfondimento degli attuali sforzi. A parziale risposta all'OCSE arriva l'annuncio del ministro del lavoro spagnolo, Valeriano Gomez, che ha confermato questa mattina che il governo vuole aumentare l'età pensionabile da 65 a 67 anni e allungare da 15 a 20 anni il periodo di contributi sul quale si calcola l'importo della pensione. Siamo all'Italia, oggi ci sono da segnalare le parole del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che dice sulla crisi, parlando agli ambasciatori riuniti al Quirinale e quindi con un discorso naturalmente di respiro globale e non solamente italiano, dice o si riemerge o si affonda insieme. Napolitano invita gli ambasciatori a non indulgere alla visione schematica di una globalizzazione che produce pochi vincitori e molti sconfitti. Ascoltiamolo. Dobbiamo altresì interrogarci sulla profonda inclinatura del modello di sviluppo basato su un enorme dilatarsi della dimensione finanziaria. Le istituzioni creditizie si sono in molti casi assunte rischi immensi senza adeguate coperture. Il mercato lasciato a se stesso ha prodotto crescita ma ne ha rivelato i piedi d'argilla, fra l'altro a prezzo di crescenti ineguaglianze delle quali dobbiamo oggi farci carico. La protesta pacifica, benché spesso sviata da inammissibili violenze di tanti cittadini nelle strade delle nostre capitali, è una spia di malessere che le democrazie non possono ignorare. Al contempo hanno fatto irruzione sulla scena le economie emergenti e in via di sviluppo. Non nascondo gli squilibri e le tensioni di fronte a cui questo nuovo scenario pone economie industrializzate di vecchia data, come l'Italia. Ma neanche che questo rivoluzionamento nei rapporti economici mondiali ha sottratto decine, centinaia di milioni di esseri umani all'asservimento della povertà e del bisogno. Questo è un grande successo del sistema internazionale cresciuto negli ultimi 60 anni e della globalizzazione negli ultimi 20. Dobbiamo indubbiamente gestirlo, non disconoscerlo. Per quanto riguarda l'euro, dice il Presidente della Repubblica, è un traguardo irreversibile e poi il Capo dello Stato ha ricordato l'ex ministro Tommaso Padoa-Schioppa, l'ex ministro ed economista Tommaso Padoa-Schioppa, scomparso, come sapete, nella serata, nella notte di sabato. Ascoltiamo Napolitano. Quest'anno i contraccolpi della crisi finanziaria mondiale si sono abbattuti con particolare intensità sulla moneta unica europea. Non sottovalutiamo i rischi per tutti, ma siamo fermi nella considerazione che l'euro costituisce un traguardo fondamentale e irreversibile della nostra vicenda comune. E lasciate che io qui renda omaggio alla memoria di Tommaso Padoa-Schioppa, recentemente e repentinamente scomparso, grande figura pubblica italiana ed europea che di quella scelta fu protagonista. Era un ricordo proprio di Tommaso Padoa-Schioppa, scomparso all'età di 70 anni. Sentiamo Stefano Micossi, economista, direttore generale di Assonime, intervistato da Laura Bettini. La cosa straordinaria delle discussioni con lui era l'ottimismo pratico. Cioè, tutte le volte che andavamo da lui e dicevamo, guardandolo il misero spettacolo, come lo guardiamo oggi, dei governanti nel Consiglio europeo e nelle altre sedi che cercano sempre di fare danni molto a lungo prima di convincersi delle soluzioni giuste che gli uomini come Padoa-Schioppa propongono, aveva questo ottimismo pratico, diceva: ma no, questa crisi è una grande occasione. È evidente come che l'ha non detto c'è scelta, dell'ultima, tra l'altro, crisi. Come l'ha detto dell'ultima, è evidente che non c'è scelta e che questa crisi produrrà istituzioni più forti. E diciamo, qui c'è la cifra proprio di Padoa-Schioppa: lui è un institution builder. È un uomo di policy, ma soprattutto un institution builder. La sua esperienza in ministro economia è stata tormentata. Lui parlava un linguaggio che non era il linguaggio della politica, e forse c'era un difetto illuminista. Ci sono pochi dubbi che anche lì vedeva lungo e lo ascoltavano poco. Lui disse no al contratto degli impiegati pubblici, al quale il governo subito dopo disse sì, venne smentito ripetutamente nelle scelte chiave per tenere la finanza pubblica. Aveva aumentato le tasse all'inizio e si proponeva di ridurre la spesa nell'arco triennale successivo. Il governo di cui lui faceva parte, invece, era più propenso a distribuire i tesoretti, lei se lo ricorderà. Certo. Perché è l'unico modo di tenere insieme quella coalizione litigiosa. Quindi lui fu smentito nei suoi indirizzi, non disse una parola, inghiottì la medicina e continuò, come faceva sempre, con spirito di servizio, prendendosi anche il biasimo per gli errori che erano del governo e non suoi. Le 17:19 minuti, veniamo al primo tema di giornata. Vi ricordo il numero per intervenire, il 349-238-6666, naturalmente via SMS. Il primo tema di giornata è il rapporto della Banca d'Italia sulla ricchezza delle famiglie italiane. Come si diceva, ci sono parecchi dati che riguardano la distribuzione della ricchezza, gli investimenti delle famiglie italiane e anche l'andamento della ricchezza delle famiglie italiane. Dunque, riassumiamoli con questa scheda. Grazie a investimenti estremamente prudenti, i salvadanai delle famiglie italiane hanno subito solo marginalmente gli effetti della crisi. È vero che tra il 2007 e il 2008 la ricchezza complessiva si è ridotta del 3,5%. Tuttavia, nei 12 mesi seguenti, si è assistito a un recupero dell'1,1%. I primi 6 mesi del 2010 si sono chiusi con una limatura ai patrimoni dello 0,3%. Per l'ennesima volta l'investimento principe si conferma il mattone. Il 62% dei 9.448 miliardi che rappresentano l'ammontare complessivo della ricchezza delle famiglie italiane. La quota rimanente è investita in attività finanziarie a basso o bassissimo rischio, come il risparmio postale o i depositi in conto corrente. Perdono appeal i bot e i titoli di Stato, in genere a causa di tassi di interesse sempre più magri. La ricchezza media di una famiglia italiana, abitazione inclusa, viene calcolata in 350.000 euro. Ma come spesso accade, la media nasconde una realtà estremamente variegata. In particolare, rileva Via Nazionale, il 10% delle famiglie più ricche possiede il 45% del patrimonio totale. All'opposto, la metà più povera delle famiglie ha in portafoglio soltanto un decimo della ricchezza complessiva. Sebbene il livello di diseguaglianza appaia in aumento, resta comunque al di sotto dei principali paesi avanzati e il confronto internazionale premia le famiglie italiane anche per quanto riguarda i debiti. A fine 2008 il loro ammontare era infatti pari al 78% del reddito, contro il 100% di Francia e Germania e il 130% di Stati Uniti e Giappone. Allora, saluto il professor Marco Giorgino, professore di finanza alla School of Management del Politecnico di Milano. Buonasera, professore. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. Allora, i quali radioascoltatori, che tra i quali sono parecchi affezionati, già iniziano a farci qualche domanda. E la prima che le giro ci arriva da uno di loro e dice, insomma, scommettiamo che non sarà una novità scoprire che la distribuzione del reddito assomiglia sempre di più ad una clessidra, per esplicitarlo. Molti poveri, un tot di ricchi e un ceto medio che si assottiglia. Lei che dice? Dico che è una situazione che purtroppo si verifica storicamente in concomitanza con tutti i periodi di grande crisi come quello che stiamo vivendo noi in questo momento. Il dato che emerge, credo che sia importante, dal rapporto Banca Italia è che l'Italia è un paese molto ricco. Effettivamente è preoccupante questa distribuzione della ricchezza che diventa molto concentrata, si parlava del 10% che detiene il 45% della ricchezza. Questo certamente non è un fatto da sottovalutare, è in concomitanza delle crisi e quindi di questa grande crisi che stiamo vivendo, e quindi un fenomeno che comunque andrebbe arginato e in qualche modo bisognerebbe cercare di identificare qualche azione correttiva. Eppure, professor Giorgino, devo dire la verità, che a guardare bene questi dati e a guardare bene quel che ci dice Banca Italia, soprattutto sul fronte del raffronto internazionale, più che un rapporto in chiaroscuro, questo sulla ricchezza delle famiglie, è un rapporto, ci viene da dire, in chiaro, perché queste diseguaglianze di reddito sono sicuramente più basse rispetto a quelle di molti altri paesi. Sul fronte del debito privato, certo, è un dato noto quello, insomma, che gli italiani sono meno indebitati di molti altri cittadini, anche europei, anche tedeschi, tanto per dire. Però è comunque un dato tutto sommato positivo. Insomma, quel che emerge non mi sembra drammatico, no? Positivo certamente, lo ricordiamo sempre, ma lo ricordiamo ancora, che le famiglie italiane si indebitano poco. Peraltro c'è stata una decelerazione nel ricorso all'indebitamento, sia sul fronte dei mutui, sia sul fronte delle operazioni di credito al consumo da parte della famiglia italiana. Ma questa non può essere una giustificazione. Noi scontiamo purtroppo dei redditi che sono decrescenti, scontiamo il fatto che le fasce più in difficoltà della popolazione certamente non riescono a risparmiare, quindi la propensione al risparmio è addirittura negativa, e quindi questo sul lungo periodo è un fenomeno che in qualche modo andrebbe quantomeno monitorato. Certo, il confronto con i paesi internazionali ci mette in una buona luce, ma cerchiamo anche di capire il trend da qui ai prossimi anni quale potrebbe essere. Sì, i debiti delle famiglie italiane quindi sono al 78% del reddito. Va bene, negli Stati Uniti nemmeno ne parliamo, perché tutt'altro mercato e tutt'altre dinamiche economiche. Comunque è il 130% del prodotto interno lordo, siamo al 100% in Germania e Francia, 130% anche in Giappone. Ecco, siamo abituati a considerare gli italiani, professore, come un popolo che si indebita essenzialmente per la casa, e questo in parte è vero. È vero però che, secondo quel che ci dice Banca Italia, solo il 41% dei debiti delle famiglie italiane è rappresentato appunto dai mutui per l'acquisto casa. Questo è un segnale anche di un, chiamiamola, evoluzione economica, nel senso che ci porta in parallelo ad altri paesi. Alcuni la vedranno come un'involuzione economica, no? Beh, intanto c'è stata anche il dato dei mutui andrebbe guardato anche in relazione al dato delle transazioni sul mercato immobiliare, in particolare le transazioni fatte da famiglie, quindi non da investitori istituzionali. In concomitanza con un rallentamento delle transazioni sul mercato immobiliare c'è stato anche un rallentamento nella domanda di mutui, che peraltro soltanto recentemente ha ripreso a salire. Non dimentichiamo una cosa, oggi parliamo sicuramente di un valore del debito per le famiglie, debito privato basso, però negli ultimi anni, fino a 2-3 anni a questa parte, il credito al consumo e tutto ciò che era indebitamento non finalizzato all'acquisto dell'abitazione per le famiglie è stata una leva ampiamente utilizzata. Oggi c'è una decelerazione, però è stata ampiamente utilizzata. È un dato quello del debito privato che ci mette in una buona posizione rispetto alle famiglie di altri paesi. Però il problema fondamentale è interpretare questi dati in una logica dinamica di movimento, di trend. È vero che siamo un paese ricco, è vero che c'è stato un decremento marginale della ricchezza, il problema fondamentale di questo paese è che la propensione al risparmio, a parte alcune poche categorie della popolazione, è una propensione ormai molto bassa. Decenni or sono ormai sono lontanissimi, ma anche qualche anno fa è ormai lontano, la propensione al risparmio, che è quella che alimenterà la ricchezza nel futuro, è oggi estremamente contenuta, e questo è un dato che deve far riflettere. Sì, ed è un cambiamento sociale abbastanza radicale per il nostro paese, no? Certamente sì, lei ricordava, anche la scheda lo ricordava, noi siamo un paese ricco, però circa metà della ricchezza delle famiglie italiane è rappresentata da attività reali e quindi da immobili. La sostenibilità di un paese si misura anche della capacità di accumulare risparmio che viene in forme immediate, intermediate, quello che vogliamo, comunque destinato agli investimenti. Oggi questo paese fa fatica a garantire questa capacità, e quindi da un lato abbiamo molti immobili, dall'altro abbiamo conti correnti e depositi postali. Flussi di risparmio destinati agli investimenti oggi fanno fatica ad arrivare. Ecco, accennava lei all'altro punto che volevo toccare io, che è dove si dirigono, insomma, quei pochi risparmi che rimangono. Allora, l'era dei bot o dei CCT è finita da un pezzo, e questo lo sappiamo. Quando poi però si deve decidere dove metto questi soldi, ma forse questo è anche un effetto della crisi, dei corsi azionari che abbiamo visto nell'ultimo paio d'anni, che ispirano assai sfiducia in un paese tra l'altro assai poco propenso ad investire nell'azionario, quando si deve decidere cosa fare con questi quattrini, conto corrente o poste. Sì, diciamo che l'effetto che noi vediamo oggi, cioè immobili da un lato e conti correnti, depositi postali dall'altro, è il frutto di una serie di forze convergenti in questa direzione. Sicuramente c'è un tema di tassi di interesse che spinge poco all'investimento e quindi a quello che può essere un orizzonte temporale più lungo. I titoli di Stato scontano dei tassi che sono evidentemente, per quanto i titoli di Stato italiani siano un po' più remunerativi di titoli come quelli tedeschi, comunque tassi molto bassi. Poi c'è un tema che è quello di capacità di risparmiare e quindi di investire, e quindi scontiamo quello che dicevo prima, una propensione al risparmio abbastanza contenuta, quella liquidità che la popolazione ha, che le famiglie hanno, se non può essere destinata a immobili, perché evidentemente comprare un immobile non è da tutti, viene destinata almeno temporaneamente, oggi è abbastanza vero questo, i dati Banca Italia lo dimostrano, in strumenti veramente molto liquidi che magari non hanno dei rendimenti ma non hanno anche dei costi. Questo fa parte un po' di un'evoluzione del portafoglio della famiglia italiana. Chi parcheggia liquidità in attesa di fare investimenti se lo può permettere, oppure chi purtroppo non può permettersi tagli di investimento rilevanti come possono essere quello immobiliare, e quindi deposita presso il sistema bancario come conto corrente, o presso il sistema postale come depositi postali, quel po' di liquidità che ha. Evidentemente questo non è sostenibile nel lungo periodo, e mi auguro e immagino che sia soltanto una soluzione temporanea. Grazie al professor Marco Giorgino, professore di finanza alla School of Management del Politecnico di Milano, e buonasera. Buonasera a voi. Questo è il quadro, ci ritroviamo tra un attimo per parlare di borse. La giornata è decisamente positiva, soprattutto a Milano, ve lo ribadisco, il FTSE share è un più 1,29%, a tra poco. A chi ci chiede ma come fa una famiglia a risparmiare con 700-1000 euro al mese, sì, naturalmente dipende dalla famiglia. Quella che ne guadagna 700-1000 ovviamente non ci riesce, anche questo dimostrano in parte i dati della Banca d'Italia. A chi ci dice invece ma basta con la crisi, è un periodo opulento, ci permettiamo di dubitarne. I mercati. Andrea Fontana, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, sedute di giovedì e venerdì nelle quali Milano è stata la peggiore d'Europa, oggi invece è stata la migliore. Come mai? Beh, innanzitutto il motivo è da ricercare in quello che già tu dicevi, quindi in un rimbalzo più significativo rispetto alle altre borse, visto le performance delle ultime due sedute. Dall'altro canto il peso dei bancari si è fatto sentire, quindi una buona giornata dei servizi finanziari, degli assicurativi e in generale dei bancari ha portato a Milano, che è particolarmente esposta, almeno nel suo indice FTSE MIB dei 40 titoli a maggiore capitalizzazione su questo settore dei finanziari, a diciamo rimbalzare in maniera più significativa, a chiudere con un più 1,5, mentre gli altri hanno segnato rialzi intorno a mezzo punto percentuale. Giornata con qualche esordio tra l'altro, no? Sì, tre titoli nuovi nel paniere del FTSE MIB, cioè di Assorin, Tots e nel Green Power. Due si sono comportati bene, di Assorin in particolare molto bene, quasi più 3% per la società del settore biomedicale. Tots è cresciuta dello 0,8%, mentre ha chiuso piatta, e nel Green Power, che peraltro aveva vissuto gran parte della seduta in rosso. Allora, per quanto riguarda i bancari, allora, complessivamente, come ci hai detto, sono andati bene. Detto ciò, ce n'è uno in particolare, che è il Banco Popolare, oggi un guadagno del 5,5%, accennavamo in apertura, c'è stata una promozione da parte di Goldman e non solo, no? Sì, certamente molta attenzione sul Banco Popolare, le prospettive dell'aumento di capitale si fanno sentire, non solo appunto Goldman Sachs ha abbandonato la raccomandazione di vendita sul titolo, ponendosi in una posizione un po' più cauta e possibilista sul titolo dell'Istituto Veronese, ma in maniera particolare sono le indiscrezioni circa la possibilità della Fondazione Cari Verona di incrementare significativamente la propria quota nell'istituto fino alla soglia del 5%, ora detiene lo 0,06% del Banco Popolare. Questo impegno da parte di un socio importante come la Fondazione Cari Verona ha messo le ali al titolo. Allora, altri bancari che sono andati bene oggi: la Popolare di Milano, un guadagno del 3,32%, Mediobanca del 3,30%, il Monte dei Paschi del 2,29%, UbiBanca del 2,19%. Ti chiedo invece di un gruppo assicurativo, ossia Fondiaria Sai, naturalmente ne abbiamo parlato moltissimo nei giorni scorsi a causa dell'aumento di capitale e della controllante Prema, fino ad oggi si sono comportate bene. Sì, oggi entrambe si sono comportate molto bene, anche perché le indiscrezioni che sono circolate venerdì sulla possibilità che il consorzio di banche che garantirà l'aumento di capitale di Prema Fine di Fonsai è ormai in via di definizione, dovrebbe definirsi prima di Natale. Già cinque banche sembrano aver affiancato Credit Suisse in questa importante doppia ricapitalizzazione, e il mercato ha ben risposto. Prema Fine ha guadagnato quasi il 5%, nello specifico più 4,9%, mentre Fondiaria Sai, che è la compagnia assicurativa che ha Prima Fin come principale azionista, è salita dell'1,9%, superando quota 6 euro. Andiamo ai titoli negativi, che sono sul FTSE MIB solamente due: Italcementi in calo dello 0,31%, Atlantia dello 0,33%, e qua il freddo, quel che è successo sull'autosole, ha qualcosa a che fare. Certamente tu ricordavi Italcementi, Buzzi Unicem, una giornata diciamo piatta del settore dei materiali per costruzione, e quindi non si sono mosse molto rispetto all'andamento del listino. Per quanto riguarda Atlantia, che è la società appunto che controlla Autostrade per l'Italia, certamente insomma, le polemiche, la situazione di questi giorni dovuti ai blocchi del traffico per la neve hanno un po' influito diciamo sull'umore degli degli investitori. L'amministratore delegato della società, peraltro Giovanni Castellucci, si è detto disponibile ad estendere procedure di conciliazione nei confronti appunto delle associazioni dei consumatori alle vicende che sono avvenute la scorsa settimana. C'è da dire che poi sul settore delle autostrade c'è anche una certa attenzione che peraltro non si è riflessa oggi su Atlantia, quanto invece sulla società spagnola delle autostrade, cioè Abertis. Sembra infatti che il fondo di private equity CVC, che già detiene circa un 15% del capitale, sia pronto a gennaio a lanciare un'offerta sull'intero capitale della società. Ricordiamo che Abertis era stata impredicato di concludere un matrimonio proprio con Atlantia, che poi invece non è approdato a nulla di concreto. A proposito di operazioni sul capitale, di possibili operazioni sul capitale, beneficia oggi Pininfarina, no? E assai ne beneficia. Sì, Pininfarina tra i migliori del listino, ha guadagnato il 14%, la migliore listina è stata Kerself con quasi più 24%, Pininfarina che ha beneficiato, come tu ricordavi, della disponibilità del finanziere francese Vincent Bolloré ad intervenire nel caso ci fosse la necessità nel capitale di Pininfarina, e quindi per rafforzare la struttura di capitale della società. Ricordiamo che tra Pininfarina e Bolloré c'è già una joint venture in atto, cioè una partnership per la realizzazione delle auto ad alimentazione elettrica, ma un impegno eventuale del finanziere direttamente nella società, cioè in Pininfarina, certamente sarebbe bene accolto al mercato, e così il mercato ha reagito oggi. L'ultimo titolo che ti chiedo, Prismian, un guadagno di 0,5 punto percentuale, qua ancora c'è la vicenda dell'OPA su Draca, sull'olandese Draca, a tener banco, no? Sì. Certamente oggi Prismian non ha reagito come il resto del mercato, non ha seguito appunto l'andamento del mercato, anche perché ormai sembra che l'offerta da parte del gruppo cinese Xinmao dovrebbe concretizzarsi, e quindi potrebbe appunto avvenire entro la metà di febbraio questa offerta sul gruppo olandese Draca, che è nel mirino di Prismian. Prismian ha peraltro ribadito la sua intenzione di lanciare la propria offerta in maniera formale all'inizio del 2011, offerta che è stata solamente annunciata, ma non è stata formalizzata. Vedremo chi la spunterà, ma certamente insomma il mercato teme che Prismian possa sborsare più soldi di quanto credeva per assicurarsi il gruppo olandese, o addirittura perdere la preda nel caso in cui i cinesi facciano un'offerta più allettante. Grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Coro, il Sole 24 Ore, in particolare ad Andrea Fontana. Buonasera Andrea. Buonasera a voi. Allora, un quadro finale di giornata, così veniamo anche ai singoli titoli che tra l'altro ci state chiedendo. Dei primi tre abbiamo detto, bene anche Tenaris oggi, un più 3,25%, Azimut e Diasor in quasi 3 punti percentuali di guadagno, così come l'Automatica. Ci chiedete di Unicredit, più 2,56%, così come ST Microelectronics, Luxottica, più 2,37%, Snam Rete Gas, più 2,35%, più 2,3% il Monte dei Paschi, UbiBanca, più 2,19%, quasi 2 punti percentuali per Fondiari, assai come si è detto, ma bene ha fatto anche Generali, un più 1,88%, e Mediolanum, più 1,8%, Intesa San Paolo, più 1,68%, Saipem, un punto e mezzo di guadagno, Terna, un 1,35%, Mediaset, l'1,28%, così come A2A, Bulgari, più 1,09%, poco meno di un punto percentuale di guadagno per Telecom Italia, Enel e Eni perfettamente uguali, più 0,80%, poco meno ha guadagnato TOTS, Exor, più 0,69%, Impregilo lo 0,59% e Autogrill lo 0,58%, mentre Pirelli lo 0,57%, Parmalat mezzo punto, poco più di mezzo punto percentuale di guadagno, e Fiat poco meno, così come Campari, Ansaldo in guadagno dello 0,39%, Finmeccanica dello 0,30%, così come Buzzi Unicem, e nel Green Power alla fine chiusura in perfetto pareggio. L'euro quota 1,31,15 contro dollaro, e visto che il tema di giornata sui mercati valutari è invece il rapporto tra euro e franco, franco svizzero, naturalmente ve lo diciamo, 1,26,5, mentre l'America è ancora in calo, meno 0,29% sul Dow Jones, più 0,04% sullo Standard & Poor's 500 e meno 0,07% sul Nasdaq, quindi in parziale recupero. Una breve pausa per la viabilità e parleremo tra poco di infrastrutture energetiche con un'importante operazione che c'è stata oggi. Le 17:47 minuti e siamo a parlare di energia, di infrastrutture energetiche. Oggi c'è stata un'importante acquisizione nel settore delle reti di distribuzione del gas, ossia E.ON ha venduto E.ON Rete, che è la società che gestisce la rete di distribuzione gas appunto per l'azienda, a un consorzio composto dal fondo investimento italiano F2I SGR, che lo ricordiamo è un fondo italiano per le infrastrutture, fondo chiuso, nato nel 2007, che ha a disposizione 1,8 miliardi di euro. Il valore dell'operazione 290 milioni di euro le attività di distribuzione di gas di E.ON Rete conta circa 300 dipendenti e gestisce 9.100 chilometri di rete principalmente nel nord Italia. La vendita è soggetta all'approvazione dell'antitrust e dovrebbe chiudersi entro la fine del primo trimestre 2011. Abbiamo sentito Vito Gamberale, che è amministratore delegato del fondo F2I. Rappresenta il 3,3% della quota di mercato. Siccome noi come F2I abbiamo già la maggioranza di Enel Rete Gas, questo significa che ora serviamo più di 2.800.000 clienti. Quando diciamo clienti significa utenze, oltre 1.500 comuni, il che significa che serviamo il 20% dei comuni italiani, no? E vettoriamo oltre 4,3 milioni di metri cubi. Ma l'obiettivo è fare della rete del gas che noi stiamo eseguendo, fare un operatore indipendente molto grande e che possa diventare un domani, diciamo, l'equivalente per la distribuzione di ciò che è Snam Rete Gas nel campo dell'adduzione primaria, no? E quindi fare un operatore indipendente, un grande operatore indipendente da coloro che vendono il gas, perché questo significa fare un operatore in grado di poter assecondare lo sviluppo urbanistico del territorio e quindi di poter assicurare l'alimentazione di nuove utenze, di poter investire per servire le nuove utenze. Significa avere un operatore in grado di dare sicurezza alla rete esistente, perché la rete esistente a volte è molto vecchia, ma diamo anche trasparenza, perché alla rete del gas è connesso anche il contatore, lei sa quanti problemi ci sono stati sulla trasparenza delle letture e quindi assicurare anche una trasparenza nel conteggio del servizio effettivamente erogato alle utenze. Così dunque Vito Gamberale, amministratore delegato del fondo F2I. E noi adesso invece, in chiusura di questa prima parte, ci occupiamo di investimenti in Italia, di investimenti esteri in Italia. Oggi è stato presentato un rapporto di Eurostat dal quale emerge qualcosa che forse non ci aspettavamo, perché l'Italia vanta costi sugli investimenti più bassi di Germania, Francia, Gran Bretagna e della media dell'Unione Europea a 27. Tutto si è focalizzato su alcuni settori chiave, cioè costruzioni e industria. La penisola viene indicata con costi medi sugli investimenti a quota 89 in una graduatoria dove chi ottiene valori superiori a 100 presenta costi di investimento superiori alla media europea. E parliamo di questo anche perché abbiamo un'intervista con un fondo, con la guida, con il fondatore presidente di un fondo estero interessato ad investire in Italia, con una disponibilità per l'Europa tra Spagna e Italia di circa 850 milioni di euro. Ci sembrava una storia interessante da raccontare, una società costituita nel 2008 che ha come obiettivo fare investimenti a lungo termine, secondo i principi però della finanza islamica. Si avvale di risorse proprie senza dipendere da capitali esterni. Dunque, se iniziamo a sentire qualche brano dell'intervista al fondatore, che si chiama Hassan Ali Syed. La nostra società si occupa di investire e gestire il denaro di chi si rivolge a noi. Ci occupiamo di finanza privata, di prestiti. La società gestisce anche il mio personale patrimonio e non sono presenti investitori esterni. Pensiamo che la miglior promozione per la società sia quella di affidarle i nostri soldi, piuttosto che dipendere da altri manager e gestori. Il nostro intento è stato quello di creare una nostra squadra di talenti e quindi la nostra società è una sorta di famiglia a cui sia io che mia moglie, che il mio dottore, che mia madre affidiamo i nostri soldi. Allora, battuta da un ascoltatore al 3492386666, dice per forza che costa meno investire in Italia con gli stipendi da fame che abbiamo. La citiamo così e la lasciamo andare. E poi abbiamo chiesto appunto al fondatore di questo fondo, del Western Gulf Advisory, così si chiama, se ha in programma di investire nel nostro paese. Gli abbiamo detto un paese dal quale di solito, o almeno alcuni investitori, tendono a fuggire. Sì, ho intenzione di investire in Italia. Non sarebbe la prima volta, perché siamo stati attivi già nel passato. Ora cerchiamo una presenza più strategica in Italia, alla luce del contesto economico che ci permette di arrivare nel vostro paese. Non posso parlare per altri e non so perché gli investitori esteri non vengono in Italia, ma la mia esperienza mi spinge a fare il contrario. Come ho detto prima, ho già investito in Italia ed è stato positivo. Sono appassionato di moda e vengo spesso a Milano. Io amo l'Italia, la sua cultura, la struttura della famiglia italiana, che è molto simile a quella indiana, dove i legami familiari sono molto forti. È quindi chiaro che abbia molte ragioni per investire nel vostro paese invece di scappare dall'Italia. E ancora, se ha visto qualcosa di interessante, se ha già avuto colloqui con qualche società italiana. Sì, abbiamo avviato colloqui con società nel settore ricettivo, nel settore dell'aviazione e nell'industria della moda. Siamo anche in contatto con una società che si occupa di design per le auto da corsa. Vediamo come vanno le cose. Se tutto andrà bene, allora investiremo in questi settori in Italia. Non sono contatti preliminari, ma è comunque prematuro parlarne alla stampa. Quindi nessun dettaglio, ma solo indicazioni di massima per il momento. Gli abbiamo chiesto anche se tra i settori a cui è interessato c'è il calcio. È infatti noto che tentò l'acquisizione di Blackburn Rovers in Inghilterra. Ascoltiamolo. You never know. Non si sa mai, sono sempre stato interessato al calcio e se arriva l'occasione giusta la colgo al balzo. Se non è la Premier League inglese, allora potrebbe essere quella italiana o di un altro paese. Sono molto determinato all'acquisto di una squadra di calcio. Recentemente abbiamo incorporato una società in Olanda e l'abbiamo inserita nella divisione sportiva della società, che sta acquistando molte realtà di questo tipo in giro per il mondo. Il calcio è uno sport molto popolare, lo seguo da vicino e mi piacerebbe un giorno acquistare una squadra di calcio. A questo punto potevamo non chiederglielo, gli abbiamo detto, c'è una squadra in vendita in questo paese, in questo momento le quote sono in realtà nelle mani di Unicredit, ma la squadra in vendita, si tratta della Roma. Ho sentito, mi sono arrivate delle voci, ma non c'è nulla di concreto. Non sono stato contattato da nessuno della Roma e io non ho contattato nessuno di loro. Non posso quindi dire di più, ma sì, ho sentito delle voci sul club romano. Non sarebbe corretto dire che la cosa non mi interessa, ma finora non sono stato contattato. E E così dunque abbiamo trovato appunto qualcuno interessato ad investire in Italia e chissà che non ne sentiremo parlare nelle prossime settimane o anche nei prossimi mesi. Ci scrivete ancora sul tema degli investimenti in Italia. Senza un minimo di ricerca e sviluppo non si va da nessuna parte, serve alta tecnologia, non quantità. Non crediate, perché su questo fronte le piccole e medie imprese si stanno anche muovendo. Ne parleremo proprio subito dopo il giornale radio. Le 18 e 7 minuti, gentili ascoltatori, di nuovo buonasera e bentornati a Focus Economia da Simone Spezia. 349-238-6666 per i vostri sms, chiama le notizie del settore, si fa per dire. Vi diamo un aggiornamento da Moody's, che in questi giorni è veramente scatenata, perché dopo aver messo sotto osservazione il rating sovrano della Spagna, ora minaccia il merito di credito delle banche, sta valutando di fatto il taglio del rating per 30 banche. Nel frattempo, sempre sul fronte degli aggiornamenti degli ultimi minuti, quello che riguarda la trattativa sul contratto dei metalmeccanici per il settore auto, Federmeccanica e sindacati di categoria FIM, UIL, FISMIC e UGL hanno dato il via appunto ai lavori della commissione paritetica nazionale, che ha l'obiettivo di definire queste norme. Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore. Noi veniamo al primo tema di questa seconda parte. Citavate anche via sms le questioni dell'innovazione, innovazione che non è solamente ricerca naturalmente, ma è anche altro: innovazione di processo all'interno delle aziende e innovazione dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, cioè del portare la tecnologia nelle proprie aziende, ed è di questo che parliamo ora. Anche nei giorni scorsi, con l'ultimo rapporto del Centro Studi di Confindustria, vi abbiamo illustrato che il 2010 si avvia a chiudere come un anno non facile. Certamente non difficile come il 2008 e il 2009, ma certo, se ci si attendeva un possente rimbalzo della produzione, un possente rimbalzo della crescita, come sapete naturalmente non c'è stato. Cosa stanno facendo le aziende adesso? Stanno cercando naturalmente di ricavare quello che possono dall'anno che verrà, di fare quello che non hanno potuto, che non sono riuscite a fare nel 2010. Ci riferiamo naturalmente soprattutto a quella che è l'ossatura produttiva di questo paese, le piccole e medie imprese. Ne parliamo con due aziende che offrono servizi a queste piccole e medie imprese, che hanno quindi un osservatorio abbastanza ampio su quello che fanno queste aziende. Sono Porsche Consulting e Microsoft Italia. Saluto Federico Magno, amministratore delegato di Porsche Consulting. Buonasera. Buonasera. E saluto William Golding, che è direttore business e marketing di Microsoft Italia. Buonasera Golding. Buonasera a lei e a tutti i radiospettatori. Il tema che stiamo affrontando qua è appunto come le piccole e medie imprese si stanno preparando a questo 2011. I temi naturalmente sono tanti, a partire dal discorso delle reti d'impresa che si sta sviluppando. Troverete tra l'altro oggi un articolo molto interessante su questo tema sul Sole 24 Ore del lunedì, ma parliamo nella fattispecie soprattutto di innovazione, e cerchiamo di farlo per una volta in maniera abbastanza concreta, non parlando di ricerca ma parlando di innovazione interna alle aziende, innovazione di processo produttivo quindi da una parte, e innovazione in termini di investimento in tecnologia. Partirei da Magno, appunto amministratore delegato di Porsche Consulting, e mi sembra di capire che i segnali che voi state ricevendo su questo fronte, voi siete un'azienda che si occupa appunto di consulenza organizzativa e quindi di fatto di innovazione di processo, insomma come le aziende possono migliorare i loro processi produttivi, magari per esempio riducendo i costi o anche solo riducendo determinati tempi di produzione, dal vostro osservatorio mi sembra di capire che quest'ultimo trimestre si sta sta configurando abbastanza bene, cioè le aziende stanno lavorando su se stesse, no? Le confermo che questo è vero. Secondo noi la ripresa c'è, ma non è per tutti. Noi abbiamo dal nostro osservatorio visto un aumento di fatturato consulenziale in progetti di innovazione di processo e di ottimizzazione organizzativa ed aziendale del 60% negli ultimi mesi, con richieste che superano addirittura un aumento del 100% rispetto all'anno scorso. È una ripresa che riguarda molto le piccole e medie imprese italiane, però sono le piccole e medie imprese che esportano e sono localizzate principalmente nel settore del nord-est italiano. Settori merceologici, direi alimentare, macchine utensili e consumer goods. Quello che però accomuna queste piccole e medie aziende è la necessità di esportare e la volontà di competere sul mercato internazionale con armi competitive che sono l'innovazione, l'efficienza, la qualità, la capacità di fare reti e quindi non utilizzare le armi competitive di vecchio stampo italiane, il basso costo del lavoro e una flessibilità che talvolta veniva scambiata con l'essere caotico. Anche perché questo naturalmente non si può più fare quando ci sono dei paesi che offrono dei livelli di flessibilità e di costo del lavoro che sono naturalmente molto ma molto più competitivi, senza contare naturalmente che non c'è più la possibilità delle famose svalutazioni competitive. Io verrei a William Golding, che è direttore di business e marketing di Microsoft Italia, al quale abbiamo chiesto di intervenire perché qualche tempo fa in un'intervista che abbiamo realizzato con l'amministratore delegato di Microsoft Italia ci ha raccontato che dal punto di vista delle piccole e medie imprese si sta registrando una forte vitalità. Microsoft ha un settore dedicato, probabilmente varrà per Microsoft ma varrà anche per altre aziende del settore. Le piccole e medie imprese stanno iniziando a valutare la tecnologia, l'investimento in tecnologia, in sviluppo tecnologico come un investimento importante, e da quel lato il vostro business sta crescendo. Anche questa è una testimonianza della vitalità delle piccole e medie italiane, no Golding? Esattamente così. Il fatto è che gli imprenditori italiani stanno considerando oggi come oggi la tecnologia non più come un costo da supportare, ma più come un'opportunità su cui possono innovare. C'è un grosso legame tra l'investimento in tecnologia e il miglioramento dei processi di produttività. Gli investimenti in tecnologia permettono alle piccole aziende di agire sul mercato come le grosse aziende. Possono ricevere i vantaggi delle grandi aziende facendo degli investimenti contenuti, migliorando la produttività di ogni individuo, così possono fare di più con meno risorse, che è un fatto ormai della nostra vita. E i segnali che ricevete voi da questo punto di vista sono abbastanza forti anche dal vostro osservatorio? Assolutamente sì, noi stiamo vedendo che le piccole e medie imprese stanno per cominciare a investire sempre di più in ambito tecnologia. Noi abbiamo più di 26.000 partner sul territorio italiano e loro ci danno questa sensazione di ottimismo verso il futuro. Ovviamente siamo in Italia, la crescita sarà contenuta ma stabile e andrà avanti esattamente nelle stesse aree e i settori che ha menzionato quello dello Porsche. Quindi appunto dicevamo l'alimentare, una determinata anche meccanica di precisione, che sono alcuni dei settori tipicamente forti del Made in Italy, no Magno? In che direzione si muovono le aziende? Cioè che cosa vi chiedono? Quello che ci chiedono è la costruzione di un vantaggio competitivo strategico basato sull'eccellenza processuale. Cioè di fatto ci chiedono: fateci diventare come una piccola Porsche, fateci diventare così efficienti come un'azienda tedesca. Tanto è vero che adesso, ultimamente, proprio il Nord-Est, proprio le macchine utensili, alimentari, consumer goods che ho citato prima, ci chiedono di implementare nelle loro aziende questa innovazione di modello tedesco. Quindi come si fa a competere sulla qualità, l'innovazione attraverso la tecnica, l'orientamento all'esportazione: bisogna esportare, bisogna vincere la sfida competitiva dell'esportazione, bisogna essere in grado di ottenere riduzioni di costo ed efficienza pur essendo in grado di attaccare nicchie. E poi lei ha citato la capacità di fare sistema, di rete, cioè utilizzare delle reti di logistica, delle reti di integrazione dei fornitori, della supply chain, per unire core competence ed eccellenze. Questo è quello che secondo me farà il successo della piccola media azienda italiana, E soprattutto dal punto di vista del settore merceologico, secondo noi le aziende che in questo momento stanno vincendo la sfida competitiva sono quelle che producono beni che sono funzionali alla crescita economica dei paesi emergenti. Io non devo produrre oggetti che anche in Cina identici o in India identici vengono prodotti, ma io devo essere in grado di produrre oggetti che supportano la crescita economica dei paesi emergenti, per esempio le macchine utensili, la meccanica di precisione, oppure dei prodotti che vengono comprati dalla nuova borghesia, dal nuovo ceto ricco dei paesi emergenti. Grazie dunque a Federico Magno, amministratore delegato di Porsche Consulting Italia, e a William Golding, direttore business and marketing di Microsoft Italia. Abbiamo una pausa per la viabilità e poi torneremo ad occuparci di Europa. Beh, sul fatto di cosa voglia dire la riorganizzazione aziendale, non è che necessariamente vuol dire taglio del personale o taglio dei costi, vuol dire magari semplicemente apprendere la capacità di avere un processo produttivo, diciamo, per un processo produttivo si impieghi magari un 10, un 15, un 20% del tempo in meno, tanto per fare un esempio, quindi non è necessariamente un taglio dei costi. Comunque cambiamo argomento e veniamo quindi alle questioni europee, che anche oggi sono tante e soprattutto si sono sviluppate nel fine settimana. Mentre il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, interviene dicendo che non si è ancora pienamente usciti dai problemi che riguardano l'euro e la stessa Unione, dice il destino dell'Europa e dell'Unione Europea sono ancora a rischio, e lancia un appello, ma questo in questo caso rivolto più all'Italia, a ridurre il debito pubblico. In Europa si crea un asse, ve l'abbiamo già accennato la settimana scorsa, nel fine settimana quest'asse si è rinsaldato evidentemente ed è Germania, Francia e Inghilterra. Nel frattempo arrivano altri frammenti di notizie nella giornata di oggi, ve ne abbiamo già citato qualcuno, ancora Moody's che torna ad intervenire e poi la Banca Centrale Europea. Saluto Adriana Cerretelli, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buonasera Adriana, inviata del Sole 24 Ore a Bruxelles. Buonasera Adriana. Buonasera. Allora, io partirei dal tema di Merkel, Sarkozy e Cameron. Nel fine settimana c'è stata questa lettera inviata dai tre che è stata accolta con toni asprissimi, a partire dalla Polonia che parla addirittura di tono da sermone e linguaggio da direttorio, anche qua toni di risposta che forse non eravamo abituati a sentire in ambienti generalmente un pochino più felpati, e che però sta creando parecchi problemi a Bruxelles e dintorni, Adriana, no? Ma direi che questa Europa sta cambiando, la crisi dell'euro sta accelerando il cambiamento e le richieste, diciamo, di Cameron di austerità sul bilancio sono sostanzialmente fatte a fini interni, nel senso che Cameron cerca di sfruttare il sentimento anti-europeista inglese per rafforzare le proprie posizioni e tornare a casa da Bruxelles e dire gliel'abbiamo fatta vedere. Infatti Cameron era venuto al vertice di Bruxelles con l'idea di fare firmare questa lettera con ben 14 firme di adesione, che erano quelle dei contribuenti netti, cioè i paesi che versano al bilancio più di quanto non prendano indietro. Però questo fronte alla fine, che erano gli stessi paesi che hanno, diciamo, ridotto la crescita del bilancio per l'anno prossimo alla metà di quanto la Commissione avrebbe voluto, cioè un più 2,9%, sempre con la scusa c'è rigore a livello nazionale, dunque deve esserci rigore a livello europeo. Però quei 14 sono spariti, nel senso che ne sono rimasti 5. I tre grandi più Olanda e Finlandia. E questo perché? proprio perché il direttorio che si va affermando non piace al resto d'Europa, ed è un direttorio che si è già visto col famoso patto di Deauville, quello franco-tedesco per esempio, in pendenza di una riunione dei ministri finanziari europei che ha dato la linea per la riforma del patto di stabilità, oppure con l'accordo per la cooperazione rafforzata sul brevetto per tagliare fuori le altre lingue e mantenere solo francese, tedesco e inglese. Cioè c'è una deriva di questo tipo in Europa. La Commissione è debole, ma è debole perché di fronte ai pesi massimi che si scatenano chiunque non potrebbe essere forte, insomma. E gli altri paesi, l'Italia non ci sta, ma bisognerà vedere poi come si evolvono le cose. Certo non è una bella Europa, è un'Europa avvelenata dalle diffidenze, da questa nuova logica di potenza di pochi. Si perde quel senso dell'unità nella diversità che è sempre stata alla base dello spirito europeo, e però questi sono i tempi. Allora, Adriana, non è che alla fine, ragionando non in termini ideali, ma in termini di realpolitik, all'Italia convenga accodarsi a questi tre? Ma certamente, il problema è se ci entri in quel club oppure no. Cioè, non è mica... cioè, tu dici sì. Col debito che hai, no, secondo me la questione del debito è certamente un problema, ma non è, anzi direi che tutto sommato la questione del debito per ora è stata gestita bene, tant'è vero che, voglio dire, quando si attaccano, a parte i mercati che non si attaccano, ma anche a livello politico non si sente diciamo parlare del rischio Italia di questi tempi, si sente parlare di altro, insomma, per cui diciamo rientrata, c'è stata la paura quando c'era la prospettiva di una caduta del governo, perché è ovvio che le crisi politiche favoriscono anche quelle economiche, la mancanza della possibilità di rispettare gli impegni presi, e quindi questo naturalmente indebolisce i paesi e li rende più vulnerabili agli attacchi dei mercati. Questo non è successo, no, non è questa la ragione, è che diciamo l'asse franco-tedesco è dall'inizio una tradizione ben consolidata in Europa, ha i suoi alti e bassi, perché anche l'asse franco-tedesco io non lo chiamerei più così, io quando ne parlo di asse tedesco-francese, anche perché dentro è un asse squilibrato. Ma detto questo, sono i due paesi senza i quali in Europa si fa poco. Finora la Germania è sempre stata molto autodisciplinata, con la Merkel ha cominciato a rompere gli argini, a diventare un paese normale e più che normale, più uguale degli altri, più forte degli altri, e la Francia in questo caso va dietro alla Germania, non è più come una volta quando la Francia diciamo aveva davvero idee, iniziative, visione e condizionava la Germania. Oggi è il contrario, quindi anche dentro quell'asse ci sono molte cose che si muovono, e anche se la superficie sembra quella di sempre, ma non è quella di sempre, mentre forse l'Inghilterra è quella di sempre, quello sì. Allora ha presenza di interessi, perché questa Europa diventa sempre più nazionalista anche nell'espressione dei propri interessi. L'Europa non è più, diciamo, non ha più il progetto federalista, bensì ha il progetto confederale, cioè un'Europa di stati. Allora, in un'Europa di stati si tende a valorizzare molto di più la spesa nazionale che non quella comunitaria, e di qui la rimessa in discussione delle risorse del bilancio europeo. Allora, nel frattempo, a proposito di mercati, perché ne parlavi tu, allora, secondo un analista stanno circolando, ve la leggiamo così com'è, per carità di Dio, alcune voci di downgrade, viene citato dalle agenzie, della Francia, e quindi sono in rialzo i credit default swaps sul debito pubblico francese. Che cosa sono? Sono quelle assicurazioni, chiamiamole così, che servono a tutelare da un eventuale default di un paese. paese. I contratti oggi sono a 107 punti base, un livello mai toccato prima. Questo è il quadro, mentre Moody's sta valutando a quanto pare il downgrade di 30 banche spagnole e ha tagliato il rating anche a 5 banche irlandesi. Grazie ad Adriana Cerretelli, inviata del Sole 24 Ore a Bruxelles, e buonasera. Buonasera. Siamo quasi in chiusura, prima come sempre il collegamento con Giuseppe Cruciani. Giuseppe. Eccoci qui, grazie Simone. Fra poco avremo una di quelle considerate, di quei deputati che sono considerati dei traditori, però da fini, cioè Katia Polidori, soprannominata anche Miss Cepu, e cercheremo di capire quali rapporti effettivamente ci sono, se di parentela o no, perché c'è ancora un po' di mistero con la famosa università Cepu, e poi altri politici, il solito teatrino della politica fino alle 21. Grazie Giuseppe, dunque ci sentiamo tra poco. Termina così questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Paolo Corleoni in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia. Buona serata. Radio 24. La passione si sente.